presto vieni qui, ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Mi insegnerò l'amore, a recitare le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è basta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Ora che sei padrone delle tue azioni, 16 e 10, gli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Ora che sei in grado di fare tue scelte ed hai davanti a te tutte le strade aperte, prendi la strada giusta e non sgarrare, se no poi te ne facciamo pentire. Mettiti in fila e non ti allarmare, perché ognuno avrà la sua giusta reazione. Questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola ogni martedì in onda su Radio Onda Rossa dalle 16 alle 17. E questo martedì, un martedì particolare per il palinsesto di Radio Onda Rossa, perché oggi non andrà in onda il martedì autogestito da femministe e lesbiche, e non andrà in onda perché venerdì prossimo, venerdì 8 marzo, ci saranno 24 ore di non stop radiofonica autogestita da femministe e lesbiche. Quindi insomma è solo un arrivederci quello del martedì. Martedì, un risentirci a venerdì, e quindi dopo di noi niente da vendere, la trasmissione musicale del venerdì che si anticipa al martedì. Mi diamo subito i nostri contatti, lo 06 49 17 50 è il numero di Radio Onda Rossa a cui potete chiamarci in qualunque momento per parlare con noi in onda o fuori onda, e invece ora di buco @ondarossa.info è la mail di questo spazio radiofonico. Spazio radiofonico che ha anche un suo blog, che è il oradibuco.noblogs.org, su cui potete trovare molti materiali e le trasmissioni precedenti in podcast, che del resto potete trovare anche sul sito di Onda Rossa, www.ondarossa.info. E per finire con David Bowie sotto la mia voce, vi possiamo anche dire che insomma, come sapete, questa radio non campa d'aria, ma è la radio di chi se la sente, di chi se la sente, di chi se la sostiene ormai dal 1977. Uno dei modi è il conto corrente postale, il 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56, Roma. Ma il nostro invito resta comunque quello di venire in questi studi a portare direttamente il vostro contributo e il vostro sostegno morale, politico, economico, eccetera, eccetera. Ci sono ancora pochissime copie della Scarceranda 2013, se qualcuno o qualcuna fosse rimasta indietro. E infine, come sapete, le iniziative di sostegno alla radio, la prossima, la scena di Scarceranda al Forte Prenestino, di cui avete sentito lo spottino poco fa. Entriamo invece in materia, diciamo, e quello di cui sono, diciamo, molti gli argomenti di cui vorremmo trattare, insomma, rispetto all'argomento di questa trasmissione, che è la scuola vista dal punto di vista di chi a scuola lavora e proprio lavora o vorrebbe lavorare, che c'è chi scuote la testa davanti a me, e dopo sentiremo anche il perché, insomma, con più dovizie di particolari. Partiamo da un caso molto grave che riguarda lavoratrici e lavoratori della provincia di Bari. Leggiamo su alcune agenzie: scuola, i precari vincono il ricorso, scatta il licenziamento per 20 neoassunti. La vicenda ha qualcosa di paradossale, insomma, davanti alla logica ha qualcosa di paradossale, davanti allo stato del lavoro in Italia no, sembra quasi la normalità. No, richiama per analogie molto molto stringenti fatti a cui abbiamo assistito, scandalosi, di licenziamento di lavoratori per far posto ad altri, insomma. Sì, tanto che alcuni sindacati parlano di metodo Marchionne, insomma, richiamando alla memoria, una memoria peraltro breve, insomma, quello è successo negli stabilimenti Fiat di Pomigliano, dove ricorderete, alcuni operai con la testa FIOM in tasca sono stati reintegrati dal tribunale. A quel punto l'azienda avrebbe detto che avrebbe dovuto licenziarne altri 19 per far posto ai 19 ricorrenti che avevano vinto la causa. E questo succede incredibilmente anche all'ufficio regionale della scuola di Bari. Stiamo parlando di scuola pubblica, vi ripeto. E cosa succede? Succede che un argomento di cui poi, su cui poi apriremo anche un po' uno zoom, ma ne abbiamo già parlato l'ultima volta, nell'ultima trasmissione, molti precari e precarie della scuola hanno inoltrato un ricorso, hanno fatto ricorso sulla base della direttiva europea che prevede che dopo 36 mesi di contratto precario, di contratto a tempo determinato, ci debba essere l'inserimento a tempo indeterminato. Questo non per la scuola, ma per tutti i settori. Questo nella scuola ovviamente non succede, tanto è vero che ci sono precari che lavorano da precari da 5, 6, 10, 15 anni, eccetera. E c'è stata anche una sentenza favorevole ai lavoratori e alle lavoratrici della Corte europea, dicendo che lo Stato italiano deve assumere dopo 3 anni come tutti gli altri datori di lavoro, e iniziano a esserci anche delle sentenze italiane. L'altra volta ne abbiamo viste una che riguardava un caso siciliano. Sì, un caso di Trapani. L'altra volta avevamo parlato di un lavoratore reintegrato, in realtà sono due i lavoratori, no scusate, non è un lavoratore reintegrato, un lavoratore indennizzato, perché chi fa ricorso chiede fondamentalmente due cose: in prima istanza ovviamente l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e in subordine il risarcimento. Il giudice in questo caso ha scelto per il risarcimento, e appunto il giudice del Tribunale del Lavoro di Trapani ha reintegrato due lavoratori che avevano fatto supplenza per più di 36 mesi su posti evidentemente vacanti, cioè su posti di organico di diritto con contratto di lavoro fino al 31 agosto. I risarcimenti sono risarcimenti, diciamo così, pesanti, perché si tratta in un caso di 150.000 euro e in un altro caso di 170.000 euro, e il giudice, diciamo, ha ragionato tentando di computare in qualche modo quali sarebbero state le retribuzioni percepite nell'eventualità in cui queste persone avessero goduto delle ferie e avessero goduto fino alla pensione degli scatti di anzianità, e ha stabilito questo tipo di indennizzo. Sì, quello che poi è successo a Bari sostanzialmente è che appunto ci sono state cause di questo genere fatte inoltrate, cioè nel 2011 circa 500 insegnanti hanno presentato ricorso contro la violazione della normativa comunitaria di cui stavamo parlando. Credo che in realtà, io sto leggendo in questo momento da Repubblica, si trattasse di insegnanti e anche di personale non docente, anche per quanto riguarda i ricorrenti. La maggior parte dei ricorsi è stata impugnata dall'Avvocatura di Stato, però negli ultimi mesi c'è stato una sorta di pasticcio, dice Repubblica. Proprio l'Avvocatura avrebbe dimenticato di impugnare una decina di sentenze di primo grado stabilite dal Tribunale di Trani favorevole ai ricorrenti. Risultato: quelle sentenze sono passate in giudicato e devono essere attuate. L'ufficio scolastico provinciale di Bari ha preso un mese di tempo per decidere, ora poi è arrivata la soluzione. La soluzione è licenziare gli ultimi docenti e i bidelli presenti in graduatoria. C'è stata prima una circolare dell'ufficio regionale. La circolare del 29 gennaio. Deve avvicinare di almeno 10 centimetri. È del 29 gennaio di quest'anno, dell'ufficio scolastico regionale di Bari, indirizzata all'ufficio scolastico provinciale e per conoscenza anche all'Avvocatura dello Stato, in cui si dice esplicitamente che poiché il MEF appunto... Lo posso leggere questo piccolo brano. Stante il divieto di assumere personale a contratto a tempo indeterminato, superando il contingente autorizzato annualmente dal Ministero dell'Economia e Finanza